Europa 24. Alle prossime elezioni europee l'euroscetticismo sembra destinato ad essere senza dubbio uno dei principali protagonisti, oltre a rappresentare un punto interrogativo importante per il futuro dell'Europa. Secondo un'analisi pubblicata dal think tank inglese Open Europe, basata sulle proiezioni di Vote Watch Europe, i partiti anti-UE potrebbero ottenere circa il 31% dei voti e quindi 218 seggi su 751, cioè il 29% ad essere precisi. Nel Parlamento corrente questo schieramento rappresenta invece 164 seggi, cioè il 21% del voto complessivo. Non è semplice calcolare l'effetto della crescita euroscettica, si deve tener conto di partiti comunque tra loro diversi, divisi anche, e che hanno visioni in alcuni casi addirittura opposte sulle politiche dell'immigrazione, sulle politiche economiche e sociali. Secondo lo studio, il risultato potrebbe essere comunque quello di un Europarlamento favorevole alla conservazione dello status quo o a una maggiore integrazione europea, mentre i cosiddetti riformisti critici o anti-europeisti moderati, ossia gli eurodeputati conservatori olandesi del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, i cristiano-sociali tedeschi che credono nella necessità di un cambiamento strutturale dell'UE come unica strada per la sopravvivenza, calerebbero da 53 a 39 seggi, cioè uno scarso 5,2%. Ma naturalmente questi sono date, sono proiezione ed ipotesi verso il voto che ormai si avvicina a 20 giorni da oggi. Cambiamo tema, si celebra domani la giornata mondiale della libertà di stampa dal Consiglio d'Europa, un allarme, anche nel vecchio continente questa libertà è in fase di deterioramento. Sentiamo allora Stefano Montanari, portavoce del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muznieks, al microfono di Sergio Nava. Il messaggio del commissario per i diritti umani è un messaggio abbastanza chiaro, bisogna cambiare rotta perché la situazione della libertà di stampa in Europa è peggiorata. Negli ultimi 12 mesi ci sono stati giornalisti feriti, sequestrati, minacciati, querelati, c'è stato anche un giornalista ucciso. Ci sono decine di giornalisti ancora in carcere in vari paesi europei e questo non può essere concepibile nell'Europa di oggi. Quali sono le aree più problematiche in questo senso? Ci sono vari fattori che limitano la libertà di stampa. Il primo è la violenza della polizia contro giornalisti che coprono le manifestazioni. È stato il caso in Turchia, per esempio, durante gli eventi di Gezi, in Ucraina durante le manifestazioni, soprattutto a febbraio, e poi anche la Bosnia o di recente in Spagna. Un secondo fattore è la violenza da parte di attori non statali, ci sono centinaia di casi di violenze contro giornalisti in Europa, in Italia, in Montenegro, in Bulgaria, in Ucraina. E poi una cosa molto preoccupante sono delle leggi inadeguate che continuano a censurare la libertà di stampa. La Commissione ha sempre sostenuto che la cooperazione rafforzata sulla Tobin Tax fosse legalmente solida e oggi la Corte lo ha confermato. Così il portavoce del commissario alla fiscalità Algir Dassemeta, commentando la sentenza della Corte UE con cui respinge il ricorso della Gran Bretagna contro la cooperazione rafforzata. La Commissione, ora prosegue il portavoce, auspica che la decisione aggiunga slancio ai negoziati degli 11 paesi sulla tassa per le transazioni finanziarie. Con questo è tutto per Europa 24, vi ricordo ancora questa sera naturalmente l'appuntamento con Europa 24 notte e poi ci risentiamo lunedì. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.